Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Renzi sta ricostruendo la Democrazia Cristiana. Non mollare, Renzo, non mollare. Renzi, non mollare. Io ti sono favorevole. Ma voi io aspetti, io farò delle cose meravigliose per te in rete. Spargerò la voce che sei un uomo leale, che non hai mai raccontato storie nella tua vita, che hai una famiglia meravigliosa e un papà meraviglioso. Quindi torna, non andare via, non andare via. Il paese ha bisogno, l'ultimo centimetro prima di sprofondare nell'abisso, di un tuo aiuto. Se no da soli non ce la facciamo. Questo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è l'appello ironico di Beppe Grillo, che oggi era a Roma per parlare con la sindaca Raggi dello stadio della Roma, e naturalmente rivolto a Renzi, che è una situazione un po' particolare, sapete, del dramma, come vogliamo chiamarlo, psicodramma, del momento difficile di passaggio del PD, che dopo l'assemblea di ieri, insomma, è uscito ancora più diviso e non si capisce scissione, non scissione, quasi scissione. Domani forse si saprà qualcosa di più, visto che c'è la direzione del PD. Ne parleremo ampiamente qui a Effetto Notte. Per i vostri messaggi, commenti, eccetera, vi ricordo pagina Facebook di Effetto Notte e il numero per il messaggio WhatsApp, che è 349-238-6666. 349-238-6666. Parliamo di PD, ma poi ci occuperemo anche, e forse dovrebbe arrivare in queste ore, la sentenza della Cassazione sul delitto di Avetrana. Vi ricordate l'omicidio della piccola Sara Scazzi, per cui sono in galera da diversi anni, con condannate all'ergastolo la cugina e la zia, ma adesso arriva il terzo grado di giudizio. Vediamo insomma cosa decideranno. E poi ci occuperemo anche della protesta dei tassisti. Continuano i disagi, il quinto giorno di manifestazioni, disagi in varie città. Molti come sempre gli argomenti, anche questa sera Effetto Notte. Prima di tutto però tra poco vi riassumo la giornata e poi cominceremo a approfondire i vari temi. Allora, pagina Facebook di Effetto Notte e poi il 349-238-6666 per i vostri interventi. Partito Democratico verso il divorzio tra sinistra e Renzi, ma si cerca di mediare ad oltranza. Lo stadio della Roma, Grillo ha incontrato la sindaca Raggi e sul progetto ha detto: decidete autonomamente ignorando le pressioni esterne, sarà sentita la popolazione. Eurogruppo, il governo lavora per evitare il richiamo della Commissione Europea sui conti e per la Grecia Bruxelles vuole passare dall'austerità a riforme strutturali. All'Italia si rischia che vi siano 2000 esuberi, il governo convoca i sindacati. La protesta dei tassisti, mentre proseguono i disagi, i sindacati dicono sì al confronto, ma si ritiri l'emendamento Lanzillotta. Domani manifestazione e incontro con Del Rio a Roma. Il delitto di Avetrana, attesa la decisione della Cassazione, il procuratore generale chiede la conferma dell'ergastolo per Sabrina e Cosima Misseri, accusate di aver ucciso Sara Scazzi. UNAR, il direttore dell'ufficio antidiscriminazioni razziali di Palazzo Chigi, accusato di aver finanziato circoli di dubbia utilità socioculturale, si dimette. Le grandi mostre a Milano, da domani catering a Palazzo Reale. Medicina dalle conchiglie, una potente sostanza antidolore, può essere un'alternativa agli oppioidi. Partiamo quindi dal Partito Democratico, nel quale la scissione non sarebbe ancora compiuta, ma potrebbe essere questione di poche ore. Proseguono comunque le trattative, vi dicevo, per scongiurare il divorzio in attesa della riunione della direzione di domani. Renzi non sembra voler avviare nessuna trattativa con la sinistra. Orlando si mette in gioco e dice: se serve mi candido. E poi, insieme a Cuperlo e Damiano, dà vita alla nuova area per una proposta per rifondare il partito. Rossi, Enrico Rossi, presidente della regione Toscana, annuncia: restituirò la tessera del PD, ma il mio sostegno è per il governo. Emiliano attende l'ultima risposta da Renzi. Roberto Speranza e Bersaniani non parteciperanno alla direzione di domani. E Enrico Letta su Facebook scrive: non può e non deve finire così. Grillo a Roma, lo avete sentito, per sbrogliare la vicenda dei 5 Stelle, ironizza, dice: lancio un appello a Renzi, il paese prima di sprofondare ha bisogno di un tuo aiuto, ne riparleremo tra poco. E a proposito di Grillo, oggi il leader del Movimento 5 Stelle è andato a Roma, dove oggi ha incontrato la sindaca Raggi. Elezioni a giugno, la pazienza degli italiani ha un limite. Anche oggi Beppe Grillo torna a chiedere il voto anticipato. In trasferta a Roma con Davide Casaleggio, il leader del Movimento 5 Stelle rivolge anche un appello ironico a Matteo Renzi. Renzi, ti prego Renzi, non mollare. Stai con noi, il paese ha bisogno di te. Siamo sull'orlo di un precipizio. Abbiamo bisogno di un'ultima spinta, non mollare. Per Grillo tappa anche in Campidoglio per un incontro con la sindaca Raggi sul nuovo stadio stadio della Roma, un progetto che divide i 5 Stelle. Se lo stadio si farà, sarà fatto con criteri innovativi e prima verrà sentita la popolazione, fa sapere Grillo. Se si dovesse fare uno stadio con le strutture vicino, sarà fatta con dei criteri che qui non hanno mai visto, quindi si dovrà occupare un costruttore, non un palazzinaro. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi la Lega con il leader appunto della Lega Matteo Salvini, che intervenendo al pranzo in suo onore che è stato organizzato dagli amici della Lirica a Milano, ha detto: in autunno ci saranno i referendum per l'autonomia in Lombardia e in Veneto. L'UNAR, l'ufficio antidiscriminazioni razziali della Presidenza del Consiglio, è nella bufera dopo le polemiche sui finanziamenti ad associazioni gay maschili in cui sarebbero state organizzate delle orge, polemiche scatenate da un servizio delle Iene, e il suo direttore, il direttore dell'UNAR, Francesco Spano, si è dimesso questa sera dopo un lungo colloquio a Palazzo Chigi con la sottosegretaria Maria Elena Boschi. Dimissioni che vogliono essere un segno di rispetto al ruolo e al lavoro che ha svolto e continua a svolgere l'UNAR, questa è la nota di Palazzo Chigi, in cui si precisa che disporrà la sospensione in autotutela del bando di assegnazione oggetto dell'inchiesta giornalistica per effettuare ulteriori opportune verifiche. I relativi fondi, comunque, si legge, non sono stati erogati. E ora l'Eurogruppo. Il governo italiano per evitare il richiamo della Commissione europea sui conti, e per la Grecia Bruxelles vuole passare dall'austerità a riforme strutturali. È il momento dei colloqui e dei rapporti personali, quello di queste ore tra Roma e Bruxelles. La trattativa non è sull'entità della manovra di aggiustamento, 3,4 miliardi, ma sui contenuti e soprattutto sui tempi dell'intervento. La conferma dal ministro dell'economia Padoan. L'aggiustamento è strutturale, quindi anche eventuali miglioramenti delle stime, che peraltro si possono prevedere, non hanno impatto sull'aggiustamento strutturale. Padoan parla a margine dell'Eurogruppo, un'ulteriore occasione questa per un confronto con il commissario agli affari economici Moscovici in vista della pubblicazione da parte di Bruxelles mercoledì del rapporto sul debito, rapporto che secondo le ultime indiscrezioni non dovrebbe essere accompagnato dalla procedura di infrazione. Certo, la Commissione chiederà chiarimenti e tempi certi della manovra, che Palazzo Chigi vorrebbe però varare non prima della fine di marzo. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi della Grecia torneremo a parlare dopo, nel corso di effetto notte, nello spazio europeo. Adesso l'Europa, sempre l'Europa, è vicina ai terremotati, così il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, che ha terminato la visita di 2 giorni nelle zone colpite dal terremoto. Tajani ha confermato l'impegno economico europeo per la ricostruzione, risorse che arriveranno già nei prossimi mesi. Sentiamolo al microfono di Alessandra Schepisi. Intanto c'è già stato un intervento di 30 milioni di euro che sono stati consegnati all'Italia, ci sarà il fondo di solidarietà, penso che si arriverà a 1 miliardo di euro, più un altro miliardo che si potrà avere tramite altri finanziamenti comunitari, ricompresi i fondi regionali. I tempi arriveremo, credo, nel giro di qualche mese, trattandosi di fondi a bilancio, ma nel giro di qualche mese arriveranno i soldi del fondo di solidarietà, come credo e mi auguro che la direzione imboccata per garantire che i fondi strutturali possano essere utilizzati senza il cofinanziamento, anche questo nel giro di qualche mese permetterà alle regioni di mettere in campo risorse importanti nel giro di pochi mesi. Non solo aiuto economico però, ma anche portare all'attenzione dell'Europa il problema di questi territori, c'è un'importante iniziativa in occasione dei 60 anni dei Trattati di Roma. Sì, saremo probabilmente il 24 a Norcia con tutti i vicepresidenti del Parlamento europeo, tutti i presidenti dei gruppi parlamentari per celebrare i 60 anni dei trattati, ma anche per dare un segno tangibile, fisico, della vicinanza dell'Europa alle zone colpite dal terremoto. L'Europa non è lontana, l'Europa vuole essere sempre più vicina ai cittadini. E ora parliamo di Alitalia, dove si rischiano 2.000 esuberi e il governo convoca l'azienda. Il governo convocherà a breve, tra poche ore, i vertici dell'Alitalia per capire se ci sono possibilità di mediazione, lo ha riferito Antonio Piras della FIT CISL al termine dell'incontro tra governo e sindacati sul futuro dell'Alitalia, aggiungendo che al momento lo sciopero del 23 febbraio resta confermato. Abbiamo riscontrato, ha detto Piras, una grande disponibilità del governo. Se Alitalia retrocederà su tutto, saremo disponibili a revocare lo sciopero. Il governo, ha concluso Piras, ci ha detto che il piano industriale gli sarà sarà presentato entro la prima settimana di marzo a governo ma anche ai sindacati. Ancora un giorno cruciale quindi oggi per l'Alitalia, l'incontro tra governo e sindacati sul dossier. Per l'esecutivo presenti il ministro del lavoro Poletti, il ministro del trasporti Delrio e dello sviluppo economico Calenda, che così hanno messo le mani avanti. Il prezzo del risanamento non potrà ricadere sulle spalle dei lavoratori. Alitalia intanto è stata costretta a cancellare il 60% dei voli programmati sia nazionali che internazionali. Davanti al ministero è in corso la protesta dei lavoratori dell'USB e Cube con bandiere e cartelloni. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi la protesta dei tassisti che continua nelle principali città da 5 giorni contro le norme del decreto mille proroghe che contiene provvedimenti ritenuti favorevoli a servizi come Uber e MyTaxi. Anche di questo ci occuperemo più tardi. Adesso all'estero con questa notizia dall'ambasciatore russo alle Nazioni Unite, Vitaly Korkin, che è morto a causa di un attacco cardiaco, lo riporta il Ministero degli Esteri in una nota ripresa dalle agenzie russe. Di nuovo in Italia con la cronaca, ergastolo confermato per il boss della mafia Francesco Tagliavia, accusato di aver fornito l'esplosivo che ha provocato la strage in via dei Georgofili a Firenze il 27 maggio 1993, uccidendo 5 persone e ferendone 40. Lo ha stabilito la seconda sezione penale della Cassazione. Ed è attesa, come vi dicevo all'inizio, la decisione della Cassazione sul delitto di Avetrana. Il procuratore generale chiede la conferma dell'ergastolo per Sabrina e Cosima Misseri, accusate di aver ucciso nell'agosto del 2010 Sara Scazzi. Un tentativo di femminicidio, non ci facciamo mai mancare ogni settimana una cosa del genere. Una donna di 84 anni è stata ferita con alcuni colpi di martello dal proprio marito, un uomo di 81 anni, all'interno del loro appartamento a Sassari. L'aggressione, sulle cui cause stanno indagando gli agenti della squadra mobile, è avvenuta nel pomeriggio. Occupiamoci di cultura adesso. Sono 110 le opere del celebre artista americano Keith Haring esposte da domani a Palazzo Reale di Milano fino al 18 giugno. L'uomo è stato sempre al centro della sua poetica e sono omini stilizzati senza volto ad affollare le sue tele e i muri sui quali disegnava. Un artista morto da appena 32 anni nel 1990, ancora attualissimo. La mostra Keith Haring About Art, prodotta dal Comune di Milano Cultura e dal gruppo Sole 24 Ore Cultura, con la collaborazione della Keith Haring Foundation, è curata da Gianni Mercurio. Lo sentiamo intervistato da Adriana Fracchia. La sua preoccupazione era per la condizione individuale e collettiva dell'umanità. Questo poi si trasferisce in termini di arte in una arte che ha degli aspetti socio-politici, ma anche in una sua bulimia culturale che lo porta a considerare la storia dell'arte come un serbatoio di linguaggi da inglobare nella propria arte e da attualizzare secondo un linguaggio personale e contemporaneo. E ora una scoperta interessante per la medicina. Dalle conchiglie del mare, i molluschi che le abitano, può arrivare un'alternativa ai farmaci oppioidi per trattare il dolore. Questi animali costituiscono infatti un composto in grado di bloccare il dolore, come hanno dimostrato i test condotti sui topi dai ricercatori dell'Università dello Utah. I risultati sono pubblicati sulla rivista dell'Accademia Nazionale di Scienza Americana. Si tratta del Conus regius, una piccola lumaca di mare del Mar dei Caraibi che vive in una conchiglia a forma di cono, il cui veleno è in grado di paralizzare e uccidere le sue prede. Proprio nel suo veleno i ricercatori hanno identificato un composto RG1A che agisce sul dolore ma in modo diverso dagli oppioidi. Dà sollievo in 4 ore ma la sua azione dura a lungo, fino a 72 ore dopo l'iniezione, prevenendo il dolore, il che fa pensare che abbia un effetto rivitalizzante sul sistema nervoso. Per chiudere la notizia di calcio, via le barriere divisorie nelle curve dello Stadio Olimpico di Roma, secondo quanto si è appreso durante una riunione tecnica in questura, sul presupposto della maggiore sicurezza raggiunta e sulla scorta delle direttive ricevute è stato deciso di procedere all'abbassamento delle barriere partendo dalla curva sud, chiusa agli spettatori per Lazio-Udinese, subito dopo l'incontro Roma-Villarreal del 23 febbraio, così da poter completare i lavori in vista del derby Lazio-Roma di Coppa Italia previsto per il 1 marzo. E direi che con questa notizia abbiamo completato il riassunto della giornata. Adesso, dopo la viabilità, cominciamo ad approfondire alcuni temi, tra cui naturalmente il travaglio del Partito Democratico. Per i vostri messaggi 349-238-6666 oppure pagina Facebook di Effetto Notte, dove vedo commenti appunto sul PD ma anche sulla protesta dei tassisti. Matteo per esempio dice: difendono il passato, hanno investito male i loro soldi, però non si possono cancellare le licenze taxi e basta. In cambio del servizio che lo Stato ha concesso loro in esclusiva, i tassisti garantiscano un servizio costante anche nei piccoli centri, dice. E poi Billy. Forse giusto, devono essere riscritte le regole per il settore, la concorrenza può essere efficace solo con le medesime possibilità, non si possono però pagare 40 euro dalla stazione dei treni di Napoli all'aeroporto, sempre in città, dice, distanze neanche di 10 chilometri. E poi Simone, sempre sulle tassisti, sono assurdi, hanno investito soldi in una cosa che non ha futuro, vogliono farla pagare i cittadini, se io compro una licenza di bar tabacchi e poi non ci tiro fuori uno stipendio non vado a bloccare una città o a minacciare i miei concorrenti. Varie opinioni, insomma, tra pochissimo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Un sacco di notizie in 60 minuti, Roberta Giordano sempre con voi. Allora, il riassunto della giornata l'avete sentito all'inizio, come sempre accendete puntualmente alle 21. Se non lo fate ogni tanto vi ricordo quali sono i fatti principali e tra poco cominceremo a affrontare il primo argomento con il primo ospite. Intanto i vostri messaggi proseguono sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio, oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666. Messaggi vedo sia sul Partito Democratico che sulla protesta dei tassisti. Ce n'erano diversi prima che stavo leggendo, per esempio Doriano dice: assurdo, sono egoisticamente corporativi, loro vogliono proteggersi il posto fisso a nostro scapito. Cristiano dice: sono con loro, soprattutto Uber Halles, dice, vabbè. E poi altri messaggi invece sulla politica, vede per esempio c'è Simone che dice: io penso di sì, di aver capito cosa succede nel PD, poi in Parlamento dopo le politiche renziane e Damiani faranno accordi di governo se avranno i numeri. Francesco dice: in tutta sincerità le vicissitudini del PD stanno diventando soporifere, insomma cercheremo di non farle diventare tali, almeno qui a Effetto Notte tra pochissimo. Allora intanto vi ricordo i fatti principali. Scissione del PD sul filo del rasoio, ultimo tentativo di trattativa, domani la direzione del Partito Democratico, manovre a sinistra, si lavora gruppi e costituente. E poi Padoan, il Ministro dell'Economia a Bruxelles, stretta finale sui conti, rischio procedura da parte dell'Unione Europea, Juncker smentisce le sue dimissioni. E poi l'allarme di Del Rio per Alitalia, il problema è serio, per le ferrovie stiamo discutendo sulla quotazione, per Alitalia è stata convocata l'azienda. Per lo stadio di Roma Grillo dice: se si farà sarà sentita la popolazione. E poi questa bufera sull'UNAR, questo ufficio antidiscriminazioni razziali di Palazzo Chigi, per finanziamenti fondi in associazioni culturali piuttosto equivoche. E poi la Russia che accusa gli Stati Uniti di spiare il proprio ambasciatore, proprio di oggi poi la notizia che invece l'ambasciatore russo all'ONU è morto di un attacco cardiaco. E quinto giorno di stop dei taxi a Roma, domani l'incontro da Del Rio, disagi e tensioni a Milano, da oggi fermi anche a Napoli. Ho accettato la proposta di Piero Fassino, ho comunicato formalmente le dimissioni, il congresso ha dei tempi statutari, la parola scissione è una delle parole più brutte del vocabolario politico, peggio della parola scissione c'è solo la parola ricatto. Non è accettabile che si blocchi un partito sulla base di un diktat di una minoranza. Questo è uno dei passaggi, diciamo, più significativi di ieri dall'assemblea del PD di Renzi, che ha dato le sue dimissioni da segretario del partito. E quindi parliamo appunto di questo dramma in corso, di questa scissione in corso. Prima di tutto spontanea sorge la domanda: questa scissione è diciamo una cosa fatta oppure no? Ma dopo l'assemblea del partito di ieri, insomma, sicuramente sono state confermate le divisioni interne al partito. Le Monde, pensate, il quotidiano francese, oggi titola: divorzio al vertice della sinistra italiana. Tuttavia pare che la trattativa stia andando avanti in queste ore. Renzi al lavoro sulla sua campagna delle idee, pare che non voglia avviare nessuna trattativa con la sinistra e potrebbe anche non partecipare, tra l'altro, alla direzione del PD. Orlando, ministro della giustizia PD, ha detto che la scissione indebolisce il governo. Fino all'ultimo parlerò con Emiliano, Speranza e Rossi, che sono, diciamo, i potenziali scissionisti, vogliamo chiamarli così, e si mette in gioco Orlando dicendo: contro la rottura, se serve mi candido io. E insieme a Cuperlo e Damiano dà vita a una nuova area per una proposta per rifondare il partito. Rossi, Enrico Rossi, presidente della regione Toscana, annuncia: restituirò la tessera del PD ma sostengo il governo. E diciamo quello che più A cavallo tra le due posizioni, restare o non restare, è Emiliano, presidente della Regione Puglia, e che forse è quello che aveva un po' più di altri iniziato questa possibile scissione, divisione. Roberto Speranza, sempre della minoranza PD, e i bersaniani non parteciperanno neanche loro domani alla direzione del PD. Poi c'è Enrico Letta, ex presidente del Consiglio, che dice su Facebook: non può e non deve finire in questo modo un partito come il Partito Democratico. Mentre D'Alema, Massimo D'Alema, ha detto in una dichiarazione: stasera è imbecille chi dice che io sia il regista della scissione del Partito Democratico. E poi avete sentito anche l'ironia di Grillo. Quindi io chiedo alla nostra Emilia Patta del Sole 24 Ore. Buonasera Emilia. Buonasera. Ti chiedo, questo è un partito che, nel caso ci fosse davvero questa scissione domani, si rafforzerebbe, si consoliderebbe intorno al leader Renzi, oppure rischia di non, in questo modo, di precludersi la possibile vittoria alle prossime elezioni? Beh, al momento deve per forza fare quadrato intorno a Renzi, perché non esiste una reale alternativa alla sua leadership, e questo poi è il motivo fondamentale per cui anche le altre anime del PD, come quella che fa riferimento a Franceschini e Orlando, sono con il segretario, ormai ex segretario. Il punto vero è poi capire se tutto questo porterà a una competitività vera a livello elettorale, perché non c'è dubbio che un pochino il partito perderà. A largo del Nazareno si fanno i calcoli che alla fine non porteranno via al PD gli scissionisti più del 2-3%, ma forse sono calcoli ottimistici. Vedevo da per esempio il sondaggio di Nicola Piepoli, sondaggista noto, dice che questo nuovo partito potrebbe valere tra il 5 e il 7%, mentre i sondaggi che sono stati fatti per questa puntata di questa sera di Porta a Porta, commissionati a Tecne, dicono per esempio che IPR che gli elettori potrebbero, che tra gli elettori PD contrari alla scissione sono tra il 70% e il 63%, e che potrebbe valere tra l'8 e il 10,5% questo nuovo partito. Ma tutto vero, il problema è che i sondaggi si fanno a situazione ferma sulla carta. Dipende anche adesso dalle domande, dice tutto che troppo in movimento. Ma il movimento bisogna vedere al momento del voto. Al momento del voto potrebbe scattare il meccanismo del voto utile. Ricordiamo che Veltroni nel 2008 decise di andare da solo, lasciando la vara sinistra arcobalena di Bertinotti eccetera al loro destino. Erano forze che sulla carta alle ultime elezioni nazionale, a livello nazionale, avevano il 12% e non sono neanche entrati in Parlamento, non hanno neanche superato la soglia del 4%. Quindi bisogna molto vedere poi alla prova dei fatti, di fronte magari al pericolo sentito così dal popolo del democratico che possa vincere Grillo, no? Forse ci potrà essere un ricompattamento. Ma il punto centrale è che cosa ne sarà della legge elettorale. Perché è chiaro che il voto utile può avere un richiamo se c'è un certo tipo di legge elettorale. Se poi ne esce fuori un proporzionale, no, più o meno puro, la gente a quel punto è più invogliata a dare un voto di appartenenza. Per questo è importante. Ad esempio, se rimane questo premio, come adesso alla Camera, per chi supera il 40%, anche se è difficilmente raggiungibile, però può essere una meta che invoglia al voto utile. Al Senato al momento c'è la soglia di sbarramento all'8%, e quindi secondo questi sondaggi la sinistra rimarrebbe fuori. Ecco, sono tutti elementi da tenere. Per questo per Renzi e per i dirigenti che stanno intorno a lui, perché ormai Renzi non è più solo, non decide più da solo, insomma deve decidere con gli altri. Quali sono i dirigenti intorno a lui che decidono insieme a lui, Emilia? Beh, insomma, Franceschini sicuramente, Orlando, ma anche alcuni personaggi emersi dal suo mondo, come Del Rio, che è amico anche fraterno di Renzi, è vicino a lui, ma è sempre più autonomo, quindi è una voce da ascoltare, ecco, in questo senso. Emilia, io farei sentire, scusami, prego. No, e loro puntano appunto a cercare di mantenere un po' di quel maggioritario, come ha ricordato anche Veltroni nell'assemblea di domenica, no? Ah, guarda, lo vorrei far sentire Veltroni, dovremmo avere un passaggio di Veltroni, sentiamolo. La sinistra quando si è divisa ha fatto male a se stessa e al paese, e questa è la verità. È stato proprio questo nel tempo il demone della sinistra. La malattia è di natura politica e ridurla ai caratteri delle persone è una scorciatoia facile, come lo è cercare, personalizzando, i capri espiatori di una sindrome ben più profonda. Il PD era nato per superare tutto questo. Questo Veltroni, pare che il suo discorso insomma abbia abbastanza smosso emotivamente, Emilia. Beh sì, è stato commovente anche per chi era lì a sentirlo, insomma, perché poi si è scomodato Veltroni in un momento difficile, insomma, si circolava la battuta, è tornato dall'Africa per salvare il suo PD. Però questo è stato un gesto molto importante per Renzi, un buon risultato politico, perché la sua leadership ha avuto in qualche modo il mantello, no, del padre fondatore. E Veltroni è quello, appunto, dicevamo, del di vocazione maggioritaria, quindi insomma questo è un discrimine molto importante. Si vedrà nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, se si riuscirà a mantenere un po' di spinta maggioritaria senza, come ha detto Veltroni, rassegnarsi alle grande coalizione per sempre, perché è abbastanza chiaro a tutti i dirigenti del PD che questa prospettiva non potrebbe che far crescere Grillo. Senti Emilia, adesso ti farei sentire, e farei sentire anche agli ascoltatori, alcuni passaggi. Per esempio Bersani, il quale ha detto Renzi ha alzato un muro. Vogliamo poter discutere. Si è sentito anche stamane il segretario che ha alzato un muro e ha detto si va avanti così. Andare avanti così, parliamoci chiaro, vuol dire fare in 3 mesi una conta, un congresso cotto e mangiato, dove non sarà possibile aprire quella discussione. Questo è il punto. Questo a mezz'ora ieri su Rai 3 Bersani. E poi Emiliano, sentiamo cosa dice Emiliano, che è un po', diciamo, quello che non si capisce bene se prima era quello con la maggior spinta centrifuga e adesso forse vuole cercare di mediare. Sentiamolo. Il segretario a questo punto decide con l'assemblea la possibilità vera e reale di togliere anche a me, ammesso che io abbia voluto presentare degli alibi, ogni alibi al processo di scissione. Siete in grado di dare una mano al segretario a risolvere questo problema, che a questo punto è veramente solo di metodo, per evitare che questo processo arrivi a conclusione in modo negativo? È possibile condividere una strada che metta insieme anche il punto di vista dei 3 candidati e dei loro sostenitori? E fare sentire anche un passaggio di De Magistris, sindaco di Napoli, perché dice che Emiliano potrebbe essere un possibile interlocutore, basta che si decida. Deve stare attento in queste ore a non apparire contraddittorio, che cambia idee troppo velocemente. Io, se posso auspicare una cosa, è che Michele abbia il coraggio delle scelte. Io credo che in questo momento nel Partito Democratico di Renzi ci sono poche prospettive per un cambiamento democratico veramente. Se dovesse nascere a sinistra del PD qualcosa di veramente innovativo, diventano degli interlocutori, non significa alleati, ma diventano interlocutori. Allora Emilia, vuoi fare un commento così sintetico che poi ti leggo qualche messaggio, giusto per chiudere? Beh, diciamo che De Magistris ha a suo modo centrato il punto, perché se non rientra Emiliano, come ormai sembrerebbe, insomma, anche perché par di capire che non lo vogliono più, ecco, diciamo con una battuta, dopo queste giravolte. Vediamo comunque nei prossimi giorni, nelle prossime ore, perché domani si decide, potrebbe esserci un rientro in extremis. Si pone il problema proprio dell'alleanza sinistra per il PD. Cioè come ci si fa poi ad alleare con una forza più larga che magari arriva a includere anche Pisapia dopo una scissione così traumatica anche a livello personale, no? Per questo appunto ritorniamo, la dinamica della legge elettorale è importante. Loro, Bersani ha pensato che non ci fosse più spazio per una contendibilità, no? Questa è la scusa, la reale contendibilità all'interno del Partito Democratico, e questo è il loro motivo per uscire. Poi i renziani dicono che hanno visto i sondaggi delle primarie, hanno capito che non avrebbero mai vinto. Ecco, diciamo che siamo un po' a queste accuse. Emilia, però... senti qualche messaggio. Per esempio Luca che dice: chi se ne frega del PD, tanto le prossime amministrative perde di brutto. Poi Francesco da Genova: quando il paziente è morto, potete rianimarlo per ore, ma è morto, il PD è morto. E poi invece un altro ascoltatore: come giustificate tutto questo bombardamento mediatico sul PD? Gli italiani hanno ben altri problemi, ma al di là del benaltrismo, comunque il PD è un grande partito con una lunga storia, partito di maggioranza relativa in Italia, insomma non si può, diciamo, far finta di nulla. E poi dice un altro ascoltatore: ma perché continuate a parlare del dramma in corso riguardo al PD? Non ci interessa più, sono vecchi, finito il giochino. Se un partito non è capace di rinnovarsi, è giusto che si metta da parte, che si faccia, che lasci spazio al nuovo. E poi c'è invece Luciano da Bassano del Grappa che dice: in merito alle vicende del PD, il grande vecchio Napolitano che fine ha fatto e da che parte sta? Vuoi rispondere a questo, Emilia? Bah, Napolitano si è chiaramente allontanato da Renzi, no? Un pochino, non capendo la gestione della campagna referendaria, questa corsa un po' solitaria e questa sua difesa fino all'ultimo dell'Italicum con il doppio turno. Ma Napolitano resta sicuramente dentro del PD, si può immaginare una sua investitura di una personalità come Orlando, ecco, che comunque si differenzia da Renzi più a sinistra, ma è all'interno di quel percorso, non c'è dubbio. A questo punto, Emilia, non ci resta che aspettare domani, vedendo, sperando che insomma, qualche decisione in un senso o nell'altro sia presa la direzione del PD. Grazie Emilia Patta, buon grazie lavoro. Ciao Emilia. I vostri messaggi ancora molti, dice per esempio Simone: io penso, no, questo è un messaggio su un altro argomento. Salvatore: lotta per la sopravvivenza della Cadrega, dice il PD. E poi per Andrea: solo spartizione di posti di potere, nessuna idea o ideale. Questi messaggi più critici, 349-238-6666 per WhatsApp ed SMS, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Tra poco capiremo sulla sentenza di Avetrana, sta arrivando o non sta arrivando, ne parleremo momenti. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, ormai lo sapete, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice, con voi Roberta Giordano. Riprendiamo allora il filo dei temi. Tante notizie le avete sentite nel riassunto della giornata. Abbiamo parlato adesso piuttosto diffusamente del PD, scissione, non scissione. Probabilmente domani con la direzione del Partito Democratico si capirà qualcosa di più. Intanto adesso cambiamo tema, fra poco vi ricordo comunque i fatti principali se non avete acceso puntualmente alle 21, e per i vostri messaggi e commenti continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. E per esempio, a proposito ancora del Partito Democratico, dice Cristiano: cosa vuoi dire a uno che prometteva di lasciare la politica e poi rilancia con arroganza decuplicata, quindi si riferisce a Renzi. Mentre c'è un altro messaggio, questo di Massimo, che dice: volevano il congresso anticipato, hanno ottenuto il congresso anticipato, volevano le dimissioni del segretario, le hanno ottenute, volevano che non si ricandidasse, beh questo no, non l'hanno ottenuto. Però dice: io penso che il Partito Democratico sarà più democratico senza il clan degli odiatori. Poi altri messaggi sui tassi, ma li leggerò tra poco. Adesso dobbiamo passare a un altro tema, quello del delitto di Avetrana e l'attesa della sentenza della Cassazione, che però vedo ora slitta a domani, questa decisione sull'omicidio di Sara Scazzi, ma tra poco cercheremo di ricostruire questa vicenda molto intricata di cui molto si è parlato. Adesso vi ricordo allora le notizie principali. Partito Democratico verso il divorzio tra sinistra e Renzi, ma si cerca di mediare ad oltranza. Lo stadio della Roma, Grillo ha incontrato la sindaca Raggi e sul progetto ha detto: decidete autonomamente, ignorando le pressioni esterne, sarà sentita la popolazione. Eurogruppo, il governo lavora per evitare il richiamo della Commissione Europea sui conti e per la Grecia Bruxelles vuole passare dall'austerità a riforme strutturali. All'Italia si rischia che vi siano 2.000 esuberi, il governo convoca l'azienda. La protesta dei tassisti, mentre proseguono i disagi, i sindacati dicono sì al confronto ma si ritiri l'emendamento Lanzillotta. Domani manifestazione e incontro con Del Rio a Roma. Il delitto di Avetrana ne parleremo tra pochissimo. Unar, il direttore dell'ufficio antidiscriminazioni razziali di Palazzo Chigi, accusato di aver finanziato circoli di dubbia utilità socioculturale, si dimette. Le grandi mostre a Milano, da domani Kate Haring a Palazzo Reale. Per quanto riguarda la medicina, questa scoperta che dalle conchiglie c'è una potente sostanza antidolore può essere un'alternativa agli oppioidi. Quindi vi dicevo che uno dei fatti di cronaca nera che più ha colpito l'opinione pubblica negli ultimi anni, che ha avuto una grande risonanza mediatica, se ricordate, il delitto di Avetrana, ovvero l'omicidio avvenuto in Puglia ad Avetrana di una ragazzina, Sara Scazzi, il 26 agosto 2010. Sono in carcere da diversi anni, condannate all'ergastolo, la giovane cugina di Sara, Sabrina, e la madre Cosima Misseri. Su questa vicenda, perché è stata intricata, perché si è scoperto dopo la morte di questa ragazzina che era stata nascosta sottoterra, ci sono state, e c'è Raffaella Calandra qui per ricostruire, ciao Raffaella. Raffaella è proprio contorta perché c'è stato un rimpallo di responsabilità, di confessioni, di colpe, di recite anche così, no? È una vicenda che ancor più che contorta la definirei torbida e per questo subito mediatica a tal punto da diventare forse per antonomasia uno dei casi di cronaca nera, diventata meta anche dei viaggi del macabro, diciamo, dei curiosi, per la durata, diciamo, estenuante delle vicende prima, diciamo, di una svolta, e soprattutto anche per l'attenzione ossessiva che nei confronti di questo caso, alimentata dai protagonisti stessi della vicenda, si è creata. Sì, sicuramente una vicenda complessa, perché c'è stata un nugolo, diciamo, di omissioni e anche di ruoli di parte giocate. Depistamenti anche, I depistaggi, no? In realtà sì, più che altro, diciamo così, hanno avuto delle proprie vere e proprie delle posizioni di bugie e poi di coperture, di accuse reciproche, i vari protagonisti, soprattutto i tre protagonisti principali di questa storia, il tutto reso che sono peggiore. Michele Misseri, la moglie Cosima e la figlia Sabrina. Tutto questo, il fatto che tutto sia avvenuto all'interno di una famiglia, perché Sara era appunto la cugina di Sabrina, rende il tutto ancora più torbido e ancora più, negli anni, ancora più complesso da definire. In sostanza, quello che secondo già i due sentenze di primo e secondo grado è avvenuto, quello che i giudici hanno già fino adesso ricostruito e che la Cassazione dovrà confermare o meno, è che Sabrina Misseri avrebbe ucciso la cugina Sara Scazzi, mossa da frustrazione e da invidia, perché le attribuiva, questa cugina carina, attribuiva un ruolo nella chiusura di una sua storia d'amore. La mamma Cosima, oggi ha detto il procuratore generale, nel chiedere la conferma degli ergastoli per le due principali imputate, ha detto che la mamma Cosima, per una sorta di solidarietà da madre del sud e una sorta di solidarietà emotiva alle vicende della figlia, diciamo, l'avrebbe appoggiata in questo delitto, per poi chiedere al padre Michele Misseri di assumersi la responsabilità. No, più che di assumersi la responsabilità, di disfarsi del corpo. Infatti il padre è condannato per la soppressione del cadavere. Da dove nasce, diciamo, tutto questo grande inghippo intorno a questa storia? Che all'inizio è stato proprio Michele Misseri ad autoaccusarsi del delitto di Sara Scazzi. Poi ci sono state mille ritrattazioni, prima si è autoaccusato, poi ha chiamato in ballo la figlia Sabrina, poi ha lui stesso collaborato, questo all'inizio delle indagini, per far ritrovare il corpo della stessa Sara Scazzi, che era stata buttato in un pozzo, e alla fine però in realtà poi alla fine sono state invece poi arrestate Sabrina e la mamma, ma ora Michele Misseri torna ad accusarsi e torna a dire di essere lui l'unico responsabile. Questa è un po' anche la tesi difensiva principale. Il professor Coppi difende Sabrina e ritiene Michele Misseri l'unico responsabile del delitto mosso da un movente di tipo sessuale. No? Sfondo sessuale. E quindi insomma c'è stato uno scambio di accuse, di ritrattazioni tra i protagonisti di questa vicenda, e soprattutto nei rapporti tra moglie, marito e figlia, che reso il caso ancora più torbido, ancora più macabro, sullo sfondo di questa cittadina che, come dicevamo, è diventata la meta dei viaggi del macabro. Raffaella Calandra, ti ringrazio, poi domani allora ci aggiorniamo, perché slitta mi pare alla mattina. Alle 10 ci saranno indicazioni o sull'orario della sentenza. Comunque, o sul in giornata arriverà. Ci risentiamo domani, grazie Raffaella. Ciao Roberta. Ciao Raffaella, viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Quindi avete visto, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Roberta Giordano sempre con voi, che la sentenza per quanto riguarda il delitto di Avetrana è slittata a domani. Però abbiamo ricostruito questa vicenda così intricata, così torbida, come ci spiegava Raffaella Calandra. Fra l'altro c'è un'altra notizia, vedo adesso, si sarebbero calati dal muro di cinta del carcere grazie a un lenzuolo. I tre detenuti, sembra tutti di origine romena, fuggiti questa sera intorno alle 20 da Sollicciano. Le ricerche sono scattate subito, polizia e carabinieri insieme alla polizia penitenziaria hanno già attivato posti di blocco. Però è assurdo, ogni tot sentiamo che qualcuno si cala con le lenzuola, come eravamo abituati a vedere quasi nelle commedie, nei film o certi fumetti. Adesso invece, tra poco vi ricordo le notizie principali molto velocemente. Stavo guardando un messaggio di Max che dice: la vicenda dei tassisti dimostra una volta di più che in Italia ormai, se sei in difficoltà, nessuno ti darà sostegno, siamo al tutti contro tutti e presi una volta, uno per volta, tutti soccomberemo, la politica incassa e ringrazia, dice Max. 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp, oppure la pagina Facebook di Effetto Notte. Le notizie principali ve le ricordo molto velocemente, sono sempre questa scissione del PD che è sul filo del rasoio, forse domani con la direzione del partito si dovrebbe sapere qualcosa di più, ultimo appello in direzione appunto per scongiurare questa scissione. Poi il ministro dell'economia Padoan a Bruxelles, l'Eurogruppo, che ha assicurato insomma che l'Italia fornirà nuovi dettagli a Bruxelles sulla manovra entro mercoledì, questa manovra di correzione richiesta sui conti pubblici da Bruxelles. Poi l'allarme di Del Rio per l'Italia, potrebbero esserci 2000 esuberi, quindi è stata convocata l'azienda. Grillo sullo stadio di Roma dice: se si farà sarà sentita la popolazione. E poi la bufera sulla Lunar, che è l'ufficio antidiscriminazioni razziali della Presidenza del Consiglio, per dei fondi che sarebbero stati dati a un'associazione di dubbia utilità culturale. E poi il quinto giorno di stop di taxi a Roma, domani l'incontro da Del Rio, disagi e tensioni in varie città, Milano in particolare, da oggi fermi anche a Napoli. Avete sentito invece per quanto riguarda la sentenza di Avetrana, slitta quella della Cassazione a domani. E adesso lo spazio europeo. Europa 24 notte. E nello spazio europeo oggi parliamo dell'Eurogruppo che si è riunito a Bruxelles. Sul tavolo ci sono due temi fondamentali, che sono naturalmente i conti pubblici italiani e il debito della Grecia. E direi con Sergio Nava, che saluto, caro Sergio. Ciao Roberta. Di iniziare sulla Grecia, nel senso, c'è questo piccolo spiraglio, mi sembra, Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, che è il falco, quello sempre appollaiato lì, forse è un po' più ottimista anche su un piano di aiuti. Schäuble nuovo ha cominciato a essere ottimista ieri, quando in un'intervista alla TV pubblica tedesca ARD ha detto: l'FMI sarà a bordo, resterà a bordo. Ha cercato un po' di smussare gli angoli, anche se la Grecia resterà a bordo. Diciamo, l'FMI resterà a bordo in questo piano di aiuti alla Grecia. Però, quando gli è stato chiesto: ma lei ha parlato di Grexit in passato, lui ha detto: ti chiedevo a bordo chi restava. Non ho mai parlato di Grexit, ha detto Schäuble, ma insomma, tra le righe ha sempre detto: la Grecia farà le riforme e quindi rimarrà nell'eurozona, lasciando intendere che se si sgarra, insomma, la Grexit non è per lui poi una cosa così impossibile. Tra l'altro anche lo stesso commissario europeo Moscovici ha totalmente escluso la Grexit, e c'è stato comunque un risultato oggi all'Eurogruppo, come ci ha spiegato in conferenza stampa il presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem. The outcomes of today is that they will go back to Athens. Dijsselbloem, lo state ascoltando, ha spiegato che l'ex troica, perché ora non si può più chiamare così, insomma, aveva una connotazione troppo negativa. E anche cacofonica, diciamo, che sono quindi il Fondo Monetario Internazionale, l'Unione Europea e la Banca Centrale Europea. Esatto, tornerà la prossima settimana, a quanto pare, ad Atene per, insomma, completare la revisione del programma attuale. Non ci sono rischi di liquidità immediati per la Grecia, potrebbero arrivare in estate eventualmente, però al momento non ci sono rischi di liquidità. Si cerca, insomma, di riavviare i negoziati da parte dell'ex troica e del governo ellenico per completare il piano di riforme. Dijsselbloem stesso ha snocciolato un po' i vari capitoli che riguardano proprio le riforme, mercato del lavoro e fisco su tutti, e ha rassicurato: non ci sarà comunque austerità, anzi ci sarà attenzione anche al sociale. Da Atene è stato chiarito che non intendono avere un euro in più di austerità. Questo il messaggio del governo Tsipras. Sergio, invece, per quanto riguarda noi, cose che ci riguardano più da vicino, no? Il ministro Padoan è lì, il ministro dell'economia, presente anche lui per questa tappa europea. Forse non poteva arrivare in un momento peggiore, no? Nel senso, la crisi del PD, il partito di maggioranza relativa. Lui proverà a rassicurare i partner per questa manovra di correzione, che sono 3 miliardi e mezzo che l'Italia deve fare. 3,4 miliardi, certamente Padoan ha vissuto momenti migliori nel rapporto con Bruxelles, non per colpa sua, anche perché lui ha detto: chiedete ai deputati per quanto riguarda, diciamo, la fase più politica. Lui ha lasciato intendere, continua a lavorare per rispondere alle richieste della Commissione Europea, che dopodomani, ricordiamolo, pubblicherà un rapporto sul debito che dirà che siamo fuori dai parametri, anche se non dovrebbe chiedere l'apertura di una procedura di infrazione Bruxelles. Quello che Padoan ha chiarito è: l'aggiustamento resta di 3,4 miliardi, i miglioramenti delle stime sul PIL non avranno effetti, questo l'ha chiarito, e Moscovici, da parte sua, il commissario europeo, ha detto, è stato molto interlocutorio, ha detto: continuiamo a lavorare con Padoan per definire una soluzione. Quindi sostanzialmente una giornata interlocutoria, ma è chiaro che insomma, l'attenzione a Bruxelles su di noi resta molto alta. Grazie Sergio Nava. Grazie a voi. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Tanti vostri messaggi anche sulla vicenda dei tassisti. Vi dicevo, il quinto giorno delle proteste, una protesta che non si ferma, contro l'emendamento al mille proroghe che a loro dire favorirebbe il noleggio privato. E arriva domani questa protesta al Ministero dei Trasporti, ci sarà l'incontro con Del Rio, ma ne parliamo con la nostra Teresa Trillò in diretta da Roma. Teresa? Ciao Roberta. Allora, oggi a Roma è stata una giornata ancora di protesta dei tassisti, anche del blocco dei servizi. E come dici tu, da 5 giorni le auto bianche a Roma sembrano svanite. Infatti i tassisti garantiscono solo le corse gratuite da e per gli ospedali e anche per le persone disabili. Per tutto il resto, se si telefona ai vari numeri delle varie cooperative, rispondono che il servizio non è garantito e la ricerca di un'auto disponibile potrebbe essere vana. E alle fermate dei taxi, a partire da quella di fronte alla stazione Termini, che di solito è molto frequentata, non ci sono auto in attesa dei clienti, ma gruppetti di tassisti che vigilano e spiegano le ragioni della protesta. E sentiamo che cosa ci hanno detto oggi. Sono 7 anni che aspettiamo le regole e la Lanzillotta, di nascosto, ha infilato questo emendamento che cancella le uniche regole che ci stanno. E quindi noi ci siamo fermati perché sennò andiamo, cioè veramente già stiamo per strada, finiamo per strada sotto i ponti. Quindi domani c'è l'incontro con il governo, quindi la protesta dovrebbe rientrare? Dipende dalla risposta del governo, cioè se ritira questo emendamento assurdo che praticamente autorizza l'abusivismo totale, non si può andare avanti con l'abusivismo. Una persona non c'ha più niente da perdere, non mangia, è una guerra. Siamo disposti a tutto. E quindi domani, come avete sentito, ci saranno ancora disagi. Infatti è previsto un sit-in in piazza Montecitorio davanti alla Camera, dove approda il contestato emendamento al decreto mille proroghe, che appunto secondo i tassisti favorisce gli abusivi, anche perché fa slittare alla fine dell'anno le misure previste per normare tutto quanto il settore del noleggio auto con conducenti e sui anche tassisti che abusivi. E sempre domani alle 15 c'è l'incontro al Ministero dei Trasporti con Graziano Del Rio, e si siederanno tutti i sindacati dei tassisti e vediamo che cosa verrà fuori da questo tavolo. I tassisti, c'è da dire, che chiedono al governo di ritirare l'emendamento, altrimenti sono pronti a scatenare una guerra. Domani vedremo cosa succederà. Già, attendiamo con ansia questo incontro. Intanto grazie Teresa Trillò da Roma. Grazie, ciao Teresa. Ciao, buona serata. Noi ci risentiamo a breve per gli aggiornamenti alle 22.